9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. A due giorni di distanza dalla trasmissione che abbiamo fatto, giusto l'altro ieri, torniamo sull'Egitto, naturalmente, perché, insomma... Lo sapete, ieri i militari hanno destituito il presidente Morsi. Oggi quello che vi chiediamo, ed è la prima domanda sulla quale voglio interrogare Mervat Tuad, che è un attivista che da giorni protesta in piazza Tahrir e nelle strade del Cairo contro il presidente Morsi. Buongiorno Tuad. Buongiorno. La prima domanda che le voglio fare è questa, insomma, si diceva in apertura, allora a noi occidentali, per così dire occidentali, e anche a voi naturalmente che protestate contro Morsi, questi fratelli musulmani potranno non piacere. Fatto sta che ieri è successo che i militari hanno deposto un presidente eletto democraticamente un anno fa. C'è una sorta di pudore nella comunità internazionale a parlare di golpe, non lo fa Obama perché questo lo costringerebbe a tagliare gli aiuti militari, esatto, che concede all'Egitto. Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon parla di preoccupazione per l'interferenza militare, piuttosto eufemistico a dire il vero. Allora, Tuad, ci dica, secondo lei, insomma, che cosa c'è in tutto questo, se non è un passo indietro per la democrazia? Allora, intanto per un anno non abbiamo avuto nessuna democrazia, parliamocene chiaro. Gli egiziani stavano perdendo l'identità, la cosa più importante, l'identità dell'Egitto. Ieri l'Egitto è tornata agli egiziani e questa è la gioia degli egiziani ieri sera, che abbiamo avuto di nuovo l'Egitto, perché questa gente stava facendo perdere all'Egitto di essere un paese moderato, di essere un paese che guida la cultura nell'area. Ormai non c'era più Egitto, c'era solo un pezzo di terra che i fratelli musulmani volevano far partire da quel pezzo di terra, che loro non lo possono considerare come un paese loro, come una patria. Doveva partire un progetto di coprire tutto il Golfo con la fratellanza. E questo non c'è un colpo di Stato che viene annunciato una settimana prima, non c'è un colpo di Stato che viene protetto da un popolo. E poi il popolo, vi posso assicurare che il popolo rimane nelle piazze finché non vede un roadmap che mi assicura come sta andando le cose. Ma noi siamo sicuri che l'esercito farà, perché questo esercito è diverso, perché questo diciamo modo di vedere, gli egiziani l'hanno sentito, perché gli egiziani un presidente 30 anni l'hanno mandato via, un presidente ha governato un anno l'hanno mandato via, questo è un popolo grande. Sì, però non mi ha sciolto il dubbio, devo dirle la verità, Tuad, perché io capisco, per carità, magari è un punto di vista, ripeto, molto occidentale, magari viziato da altre cose, insomma, allora, però... Posso dire una cosa? Sì, certo, è qua apposta, chiesto apposta di venire, quindi può parlare, se lei certo. Se lei sente la dichiarazione, l'esercito ha fatto un roadmap neanche senza date, perché le date le devono mettere, diciamo, tutte le forze che aveva fatto presente, essere presenti alla dichiarazione, sarebbe lo Sheikh dell'Azhar, il Papa dei cristiani, tutte le, anche i salafiti c'erano, perché lui ha detto: io guardo, io difendo, ma io non c'entro, io non farò parte di questo. Questo è stato chiarissimo. Allora, voglio sentire Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore al Cairo, per il quale sono ore faticosissime. Ugo, buongiorno. Beh, ma anche ore molto eccitanti. Buongiorno. Buongiorno. Ugo, tu come la vedi da questo punto di vista? Perché forse io naturalmente la leggo con gli occhi dell'europeo, no? E quindi ho una lettura diversa. Cioè, chi mi ricorda su Twitter, vi ricordo tra l'altro che potete intervenire anche con l'800240024, oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, invece su Twitter mi ricordate l'Algeria del 91, colpo di stato militare che poi, proprio per l'avanzata islamica che si stava avendo nelle tornate elettorali, che poi portò alla guerra civile. Ugo? No, il paragone con l'Algeria non è molto sostenibile, perché gli egiziani sono estremamente diversi dagli algerini, perché lo Stato egiziano ha una storia diversa. L'Egitto vive da più di 5.000 anni una realtà di un centro di potere forte, diversamente dall'Algeria. Ma volevo dire che non convince neanche me il nostro ospite egiziano, perché tutto sommato quello che sta facendo adesso il generale al-Sisi è esattamente quello che circa 2 anni fa ha fatto anche il generale al-Tantawi. Non ha indicato delle date, questo non è una buona notizia, ma mi sembra piuttosto una brutta notizia, o quantomeno una notizia degna di attenzione. E nominerà adesso un civile come primo ministro, come esattamente al-Tantawi aveva fatto, e probabilmente il nostro amico egiziano sarà stato sicuramente in piazza Tahrir a gioire, immagino fosse... Ugo, ti interrompo solo perché forse non hai sentito bene la voce, perché le distanze, le cose, è una ospite egiziana. Ah, chiedo scusa. Sì, prego. Perché non sentivo poco. Sarà stata quindi anche lei probabilmente in piazza Tahrir un anno fa a invocare la cacciata dei militari. Ecco, quindi per questo io rimango scettico come osservatore, non essendo parte né di una parte né dell'altra, ma semplicemente come osservatore straniero. Conosco l'Egitto da molti anni, ma resto comunque sempre un osservatore straniero. Cioè, non è convincente. Certo, un golpe che viene fatto fuori di popolo non è esattamente un golpe. Di tutti i golpi che ho visto nella mia carriera professionale non ne ho mai visto uno dove la gente scende in piazza a gioire e a sparare mortaretti come fuori grotta, però sicuramente i canoni, le strutture di un colpo di Stato ci sono tutte, tra l'altro, ma credo che comunque la prova l'avremo entro qualche settimana, cioè se i militari, il nuovo governo, la gente di piazza Tahrir capirà che devono comunque includere anche i fratelli musulmani nel nuovo processo, allora capiremo che questo non è stato un golpe. Ma se, come è successo stamattina, vengono arrestati 30 dirigenti dei fratelli musulmani, la cui unica colpa mi sembra sia quella semplicemente di aver governato molto male, perché poi lo spoil system che hanno fatto in questo anno i fratelli musulmani non è molto diverso da quello dei partiti italiani che vincono le elezioni, certo in un quadro più democratico, di garanzie democratiche più chiare, però cioè, lo spoil system viene fatto dappertutto. Ecco, quindi se non includono i fratelli musulmani ma li arrestano, allora io credo che questo potrà essere veramente considerato un golpe. Buongiorno a Lapo Pistelli, vice ministro agli esteri con delega all'Africa, persona che tra l'altro si è occupata molto delle primavere arabe. Buongiorno Pistelli. Buongiorno a voi. Non pensavamo di doverla richiamare così presto, ci aspettavamo una transizione, come dire, lievemente più morbida. Vorrei partire subito da un paio di cose. La prima è questa, riguarda la possibile reazione dei fratelli musulmani. C'è stata, non dico una chiamata alle armi da parte di Morsi e dei fratelli musulmani, ma insomma ci siamo andati abbastanza vicini. Visto che poi nella notte ci sono stati parecchi arresti all'interno del partito dei fratelli musulmani, secondo lei si rischia una deriva violenta, terroristica, uno sbocco in una sorta di guerra civile? Beh, se uno dice si rischia, si può sempre dire che si rischia. Evidentemente speriamo che questo non accada. È la prima volta che mi tocca nella mia vita vedere un annuncio di destituzione di un presidente fatto dai militari, salutato dalla piazza con i fuochi d'artificio. Questo la dice lunga della peculiarità assoluta che rappresenta questo caso egiziano. L'annuncio fatto in termini molto preoccupanti dal quartier generale dei fratelli musulmani sulla chiamata al martirio era stata poi dopo corretta già dall'ex presidente Morsi dicendo resistenza non violenta. È chiaro che in un paese di quelle dimensioni non si possono escludere violenze, e violenze ci sono state, nei giorni scorsi, ma anche forse nella stessa piazza Tahrir, come qualcuno ha fatto far notare oggi. Però diciamo il nostro auspicio in questo imbarazzo un po' generale che regna è che se la transizione è stata e sarà rapida, che sia non violenta e che arrivi a rimettere insieme la maggior parte del popolo egiziano su un'ipotesi che non vede, come questo sembra capire da queste prime ore, i militari tornare alla guida. Trovo molto interessante dal punto di vista proprio anche analitico che i militari abbiano affidato a un laico e a un laico titolato, si dice, rettore dell'università, il compito di guidare questa fase, quasi a dire non vogliamo tornare noi in campo, però cerchiamo uno competente capace di guidare questo paese. Quindi lei dice l'importante è che in questo processo che si avvia adesso in Egitto, che molti faticano a chiamare golpe, questa mattina il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon parla di interferenza militare, mi sembra francamente un eufemismo, detto ciò l'importante è che includa anche i fratelli musulmani questo processo, naturalmente. Ma allora c'è un altro editorialista oggi su uno dei principali quotidiani italiani che parla di golpe popolare, che è un'altra espressione, come dire, simpatica, perché l'aggettivo tende a smorzare la portata reale di quello che è accaduto, cioè una destituzione dove il nuovo capo delle forze armate, peraltro non ce lo dimentichiamo, scelto da Morsi 8-9 mesi fa in un accordo con la nuova generazione dei militari, lo ha fatto dopo aver consultato telefonicamente e personalmente tutte le forze di opposizione, il che conferma un dato che dicevamo però anche gli altri giorni, ovvero esistevano ed esistono due piazze, diciamo così, legittimate entrambe a dire io sono l'Egitto, quella che ha vinto ieri è quella che aveva innescato la rivoluzione 2 anni fa, quella che ha perso ieri era quella che aveva tratto profitto dalle elezioni presidenziali e parlamentari 1 anno fa, ma c'è anche una terza legittimità storica della storia dell'Egitto, che è quella dei militari, che dalla prima rivoluzione hanno sempre espresso, proprio fino a Mohamed Morsi, primo presidente civile eletto, hanno sempre espresso in continuità l'asse portante, la spina dorsale di questo paese. Ora, come dire, davanti a questo la speranza ovviamente è per tutti noi che siamo vicini a questo enorme, grande, gigante geopolitico mediterraneo, non solo che i militari siano oggi almeno interpreti in questa fase di transizione di un pezzo della piazza, perché questo metterebbe già almeno 2/3 della società italiana egiziana insieme, ma che si faccia un lavoro che noi abbiamo sempre raccomandato negli anni passati di distinzione all'interno della galassia dei fratelli musulmani delle parti, diciamo così, più radicali, di quelle che magari hanno chiamato la piazza al martirio, a quelle che invece hanno avuto un atteggiamento più moderato e anche negli ultimi mesi di critica verso la capacità di governo del presidente Morsi. Se mi si consente l'espressione, i fratelli musulmani, come molti hanno detto in questi anni, erano più paragonabili alla democrazia cristiana degli anni 50 e 60, molte correnti dentro. Ecco, non è che possono essere presi o rifiutati come un unico pacchetto, non si può passare dalla galera alla presidenza alla clandestinità ancora. Insomma, c'è molto da lavorare in questo mondo per non dividere ulteriormente il paese. Ho una domanda a questo punto, Vice Ministro, su quelli che sono gli interessi italiani, che sono vari e molteplici in Egitto. Ci sono molte aziende, ci sono grandi aziende, più avanti ospiteremo un imprenditore, invece un piccolo e medio imprenditore che ha uno stabilimento in Egitto. Lei si sente di rassicurare gli italiani che lavorano là e che hanno interessi in Egitto e le nostre aziende su tutto questo? Perché immagino che la preoccupazione in questo momento sia forte, e in realtà non da oggi, perché questo clima di tensione post Mubarak in realtà va avanti da quando è caduto Mubarak, insomma, da 2 anni. Ma guardi, noi siamo stati, anche io personalmente, da amici ieri, state telefonate, ma addirittura a quelli che hanno il parente, l'amico, la ragazza, Sharm el Sheikh, eccetera. La Farnesina ha espresso un consiglio molto sereno, molto sobrio, ha detto se qualcuno deve andare oggi, insomma magari ci pensi una volta di più, chi è in località di vacanza, basta che non vada a cercare emozioni forti o fotografie nelle piazze, magari resta al mare dove è. Quanto agli imprenditori, beh, diciamo, questi ultimi 2 anni una delle ragioni, probabilmente, anzi forse la principale, sulla quale i musulmani pagano pegno, è quello di non essere riusciti a deliberare riforme sostanziali sul piano economico. E ovviamente l'economia che è stata una delle cause del mondo Mubarak. Diciamo così che nell'avvicendamento frequentissimo di governi e ministri non è stato facile per i nostri imprenditori, che pure lì sono presenti attivi, avere una serie di riferimenti. Sì, ma si sente di rassicurarli al momento? Ma io mi sento di rassicurarli, sento di dire che avete tenuto duro in questi due anni, tenete duro ancora, nell'auspicio che si vada presto alle elezioni parlamentarie e politiche, che si abbia un governo alla fine di una fase di transizione. Avete retto nei momenti in cui veramente le cose giravano in troppa rapidità, senza avere riferimenti, leggete anche nei prossimi mesi. Quindi tutto con... Sì. Stiamo perdendo, la stiamo perdendo comunque, insomma, più o meno le domande erano esaurite, poi ci deve salutare, lo sappiamo. La salutiamo senza avere un saluto di ritorno, grazie a Lapo Pistelli, vice ministro agli esteri, e chiedo scusa a Merbat Tuade e Ugo Tramballi se li ho tenuti in caldo qualche minuto, ma proprio perché Pistelli aveva solo questo spazio in questa mattinata. A proposito di quello che dicevamo prima, voglio leggervi alcune delle cose che ci state scrivendo sulla nostra bacheca Facebook. Alberto Pasian dice: dal momento che la politica dei Fratelli Musulmani consiste nell'applicazione della Sharia, la domanda lecita è: sono una forza politica compatibile con una democrazia moderna, intesa come estensione dei diritti e partecipazione alla vita civile di uno Stato? Una vera democrazia dovrebbe dare ai suoi appartenenti gli strumenti per danneggiarla? A mio parere no. E ancora, dice, sono d'accordo nel non escludere le forze islamiche, a patto che si adattino ai metodi e principi democratici. Ancora Marco Folcio dice: hanno disintegrato l'economia con più potenziale di tutto il Mediterraneo e si apprestavano a varare leggi che le fascistissime impallidirebbero. Da noi dai, basta con lo spirito di Monaco che porta la guerra. Ogni tanto la politica deve essere senza se e senza ma. Saluto Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali alla Luis Guido Carli, buongiorno. Buongiorno a voi. 9 in punto. Mi chiede Simone Bianco su Twitter: conta la forma, la democrazia o la sostanza? Come si governa? Beh, è una delle domande che ci stiamo ponendo questa mattina parlando di Egitto. Brevi, Angelo dalla provincia di Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Io la penso totalmente il contrario. Secondo me, quando l'esercito tira giù uno che è stato eletto democraticamente, mi sembra assolutamente inconcepibile che si possa dire democrazia. La democrazia è fondata su questo: se secondo gli altri non va bene, allora non è democrazia, allora facciamo tutti così, possiamo farlo anche in Italia, siamo anche noi governati un po' così alla Carlona, però abbiamo avuto anche noi, allora però noi siamo, cioè se noi non portiamo la democrazia come cultura in quel paese, è assolutamente, è una fase di transizione, è ovvio, però non possono andare sempre su, l'esercito va su e chiude, e poi dopo va su un altro e dopo torna l'esercito, e allora non finisce mai. Grazie Angelo, grazie Angelo. Simone dalla provincia di Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io chiamo perché ho sentito tante cose sull'Egitto, io dall'età di 16 anni che vado e vengo dall'Egitto in Italia per lavoro ha iniziato mio padre, ultimamente purtroppo abbiamo dovuto smettere la nostra attività per questioni di sicurezza, continuo però ad avere un appartamento affittato a Nasser City nel covo dei Fratelli Musulmani. Le posso dire una cosa, che l'Egitto nella realtà dai tempi di Sadat sempre stato controllato dai militari, anche economicamente. L'80% delle attività economiche fanno capo ai militari o a prestanomi di militari. La democrazia non c'è mai stata, continua a non esserci. Il problema è che non c'è più quel connubio che c'era prima tra un leader molto forte, che era Mubarak, che riusciva a fare il doppio gioco con gli Stati Uniti, ad ottenere finanziamenti a destra e a sinistra, che lui sapientemente ha investito in opere pubbliche. Perché guardi che l'Egitto in 15 anni, cambiato incredibilmente. Se posso dire, hanno portato acqua dove c'era il deserto, ci sono oasi che non esistevano, Sharm el Sheikh, altre situazioni. E sono 10 anni che l'Egitto ha iniziato ad investire per creare una propria attività produttiva locale, favorita ovviamente dalle istituzioni. Ora, il problema era che Mubarak non poteva campare 200 anni. I problemi sono iniziati nel momento in cui lui ha cercato di introdurre il figlio, anche con diciamo, la volontà dei militari, solo che purtroppo per dare quella parvenza di democrazia che hanno sempre cercato di dare, si sono create delle situazioni spiacevoli. Grazie, grazie Simone. Grazie Simone per il quadro, insomma ci sembra abbastanza chiaro. Vorrei andare appunto a Raffaele Marchetti, che avevo salutato all'inizio, che è docente di relazioni internazionali alla Luis Guido Carli, e poi una domanda che voglio girare anche agli altri nostri ospiti, quelli che abbiamo salutato e sentito all'inizio, Mervat Tuad e Ugo Tramballi. Se a questo punto c'è il rischio, come ci diceva anche poco fa la Popistelli, il vice ministro agli esteri, se insomma qualche rischio c'è che ci sia un'esclusione dalla vita politica dei Fratelli Musulmani e conseguentemente un rischio di violenza, un rischio di esplosione di violenza? Beh, direi che il rischio c'è da entrambe le parti, da un lato l'opposizione che è scesa in piazza e che ha deposto Morsi non sembra intenzionata, almeno per ora, ad aprire, e quindi in qualche modo sembra predisposta a ripetere lo stesso errore fondamentale dei Fratelli Musulmani, che è stato quello di essere saliti al potere monopolizzandolo e lasciando fuori l'opposizione. E dall'altro, i Fratelli Musulmani ci aspettiamo, così come hanno già detto in varie dichiarazioni, che tenderanno a non riconoscere la legittimità di tutto quello che verrà nel prossimo futuro. La loro parola d'ordine è stata quella della legittimità del governo Morsi e quindi della illegittimità di tutto quello che è stato deciso e messo in atto negli ultimi giorni e soprattutto ieri in serata. Mervat Tuad, lei come la vede? Perché immagino che dal vostro punto di vista, mi scusi, io immagino che dal vostro punto di vista naturalmente l'inclusione dei Fratelli Musulmani nel processo che verrà... Sono stati invitati ieri alla riunione e non sono andati, uno. Due, il discorso che ha fatto il ragazzo di Tamarro, la ribellione, quel movimento che ha radunato tutti gli egiziani dietro un foglio di carta che dice non vogliamo più morti, ha invitato i giovani di Fratelli Musulmani di mettere la mano per mano per mandare avanti il paese. È stato il suo discorso iniziale. Cioè, noi non siamo, l'egiziano di sua natura è religioso, però non mischia la religione con la politica di natura. Noi tutti siamo religiosi e noi tutti abbiamo detto, ieri veramente il dialogo è stato, da dopo la dichiarazione, tutti i giornalisti, le media hanno detto i Fratelli Musulmani fanno parte da questo diciamo contesto sociale, non possiamo escludere un contesto, escluderli dal contesto sociale. Tutto questo è stato detto, perché nessuno ha un'intenzione, perché fanno parte, se vogliamo o non vogliamo, fanno parte. Perché i salafiti ci sono stati? I salafiti sono ancora più duri, diciamo, a livello ideologico, però ci sono stati ieri, hanno fatto un discorso dopo la dichiarazione. È perché i Fratelli Musulmani volevano solo il potere. Allora, Ugo Tramballi, invece tu come la leggi? Insomma, prima abbiamo evocato erroneamente l'Algeria, insomma. Tu come la leggi? Vedi qualche rischio da questo punto di vista che l'Egitto precipiti nella cosiddetta, scusate l'espressione abusata, spirale di violenza? Beh, ho già risposto anche prima di Pistelli, si capirà se questa è una, si definirà questo come golpe o no, in base a quanto saranno inclusivi con i Fratelli Musulmani, che restano una realtà fortissima di questo paese. Ho già detto che questo paese non può essere paragonabile all'Algeria, perché ha più di 5.000 anni di storia di un potere centrale, il nazionale, coloniale o quello che sia, ma comunque di un potere centrale riconosciuto. No, il problema riguardo alle imprese, io non inviterei in questo momento le imprese italiane a cercare di venire in Egitto. Per cominciare, già i paesi, tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea qui avevano già detto al governo dei Fratelli Musulmani, che cercava di promuovere investimenti, che l'Unione Europea non promuoverà investimenti in Egitto fino a che non saranno garantiti quelli già fatti, perché quasi tutte le aziende italiane qui hanno dei contenziosi con le autorità giudiziarie, perché in fondo il governo dei Fratelli Musulmani è stato ancora quello che più di tutti aveva aperto agli investimenti stranieri, ma gli egiziani hanno, come dire, una certa ostilità patriottica, nazionale nei confronti degli investimenti stranieri, li invocano ma poi non li proteggono. Adesso il dubbio aumenta ancora di più, perché i Fratelli Musulmani in fondo avevano un atteggiamento verso l'economia molto, molto moderato, molto privatizzazioni, molto apertura, poi certamente avevano un progetto economico molto fallimentare, anche perché era inespresso, nel senso che avevano una posizione, diciamo, teorica quasi da repubblicani americani di laissez-faire, ma poi la loro base politica invece è una base popolare, che invece è ostile alle privatizzazioni. Ma i militari sono storicamente contrari a privatizzazioni e investimenti stranieri. Per esempio, ci dobbiamo dimenticare che la possibilità che venga contrattato col Fondo Monetario Internazionale il prestito che è lì da 4,8 miliardi di dollari, che aprirebbe la strada ad altri 15 miliardi di investimenti delle organizzazioni multilaterali, Unione Europea compresa. Perché anche i militari prima erano contrari a questo, e questi militari di adesso suppongo saranno ancora più contrari. I militari egiziani sono, dal punto di vista economico, praticamente dei vetero comunisti, nel senso che hanno ancora un'idea molto statalista dell'economia. Questa è una delle ragioni per cui fecero cadere Mubarak, e tra l'altro hanno anche un apparato militare industriale che è fra il 20 e il 40% dell'economia egiziana, che è assolutamente opaco, non c'è chiarezza, non c'è trasparenza, il loro bilancio militare è il segreto del di fuori del bilancio dello Stato. Cioè, i militari sono la principale lobby di interesse di questo paese, per questo in qualche modo è giusto anche dubitare un po'. Graziano Veggian, buongiorno. Buongiorno a lei. E lei ce l'ha contenziosi legali là in Egitto? No, fortunatamente. Quindi no, riguarda più altri suoi colleghi. Allora, lei ha un impianto, uno stabilimento alla periferia del Cairo, ho capito bene? Sì, esatto. Noi abbiamo un stabilimento a 10 Mela Daman, una cinquantina di chilometri fuori Cairo, una delle zone più grandi industriali del Cairo. La seconda è a 6 ottobre, altri 50 chilometri opposti. E possiamo dire cosa produce? Noi, la nostra azienda produce componenti per auto, automobili e elettrodomestico. Abbiamo un'azienda in Italia che lavora per tutta Europa, e abbiamo deciso 8 anni fa di cominciare questa avventura in Egitto tramite una missione organizzata dall'API di Padova. Mm-hmm. E nel 2008 abbiamo aperto un'azienda locale. Ascolti, lei fino a 3 giorni fa era, se non sbaglio, al Cairo, tre, quattro giorni fa. Esatto. Vive con preoccupazione quello che sta succedendo oppure no? Oppure tranquillo? Ha sentito cosa dice Tramballi? Dice: occhio che i militari son peggio dei Fratelli Musulmani per voi. Diciamo che questo è vero. Beh, quando si parla di militari c'è sempre un senso un po' di attenzione, giustamente bisogna stare molto allerta, però diciamo che noi viviamo come azienda locale, io personalmente e i miei colleghi una settimana al mese la passiamo là in azienda e nelle varie aziende con cui collaboriamo. Il sentore di quello che stava succedendo non è da oggi, ma è già da diversi mesi che era in crescita. La data del 30 giugno era ovviamente prevista, perché era l'anno in cui Morsi venisse da letto, e quindi è già settimane che si stava pronunciando questa movimentazione di piazza, non sapeva le dimensioni. Infatti l'esercito e i militari si erano già mossi una decina di giorni fa, noi eravamo là, vedevamo i movimenti e cominciavano ad andare a copertura dei siti più importanti, del Museo Egizio, a Giza dove c'è le piramidi, i vari per evitare, come è successo 2 anni fa, i saccheggi o altre cose. Però, come dire, per il momento voi vi sentite tranquilli in sostanza? Diciamo che le zone industriali in questo momento non sono toccate da questo problema. Le manifestazioni avvengono in centro Cairo, nelle grandi città, e nelle zone industriali io ho sentito anche i miei collaboratori ieri sera e questa mattina, a parte l'euforia in Cairo per le decisioni di Morsi, ma non abbiamo problematiche di sorta nelle zone industriali. 9 in punto. Vediamo un po' chi è da più tempo in linea. Habib, dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Mi sente? Sì, la sento. Dunque, io vorrei spiegarvi 2 punti importanti, perché ho notato che c'è molte persone, compreso anche il vostro inviato, che hanno pochino di fraintendimento, diciamo. C'è una cosa fondamentale. Innanzitutto, mi spieghi questo nome, lei è egiziano di origine, no? Come funziona? Sì, io sono un manager delle industrie italiane da 30 anni, ma sono nato in Egitto, ho vissuto in Egitto, ho studiato in Egitto, poi l'università l'ho fatta in Italia, sono 30 anni che sono un manager di industrie italiane e mi occupo di Medio Oriente. Benissimo. Compreso l'Egitto. Benissimo, quello prego. Quello che vi voglio spiegare è scritto nella storia, che i militari in Egitto sono una cosa diversa rispetto ai militari in Europa o in altre. La democrazia stessa è una cosa diversa, cioè in ogni famiglia in Egitto c'è un militare, sia che sia un ufficiale, sia che sia un soldato, sia che sia un medico, anche un ingegnere, che poi firma per rimanere, e quando va a fare la leva firma per rimanere e rimane per tutta la vita nel militare. L'esercito in Egitto è una cosa molto diversa di quello che c'è qui. Praticamente ogni famiglia ha un figlio o due o cugini che sono dell'esercito, o ingegneri o medici, ma comunque hanno la divisa e sono dell'esercito. Per cui quando si parla dell'esercito in Egitto, l'esercito in realtà è quello che è un po' l'anima di ogni famiglia, quindi è quello che con Nasser ha cacciato via gli inglesi, eccetera, eccetera. Per cui l'esercito non è interessato in Egitto a fare un vero golpe, come viene inteso normalmente. Per quanto riguarda i fratelli musulmani, vorrei che tutti lo sapessero: i fratelli musulmani devono avere voce in capitolo, nel senso far parte dei partiti, ma non devono governare, perché i fratelli musulmani dai tempi di Nasser, perché anche Nasser li aveva isolati, hanno delle idee, o perlomeno una parte, grossa parte di loro, hanno delle idee del tipo chiudere ogni discoteca, chiudere ogni club, chiudere ogni. Allora, i fratelli musulmani vorrebbero portare la Sharia. Allora, non esiste un paese che può andare avanti né con la Sharia né neanche in Italia, per dire, con comunione e liberazione. Cioè, dove interviene la religione per voler governare uno Stato, lo Stato non è una persona, non ha la fede, non ha una religione, lo Stato è una. Grazie Habib. I fratelli musulmani come comunione e liberazione. Brevissimo Stefano da Roma, buongiorno, breve, 30 secondi se ce la fa. Stefano. Io collaboro con un quotidiano telematico che si occupa di mondo arabo, quindi una visione molto ampia in questo senso. Solo due notazioni, ovvero la prima, la chiusura delle televisioni dei fratelli musulmani e dei salafiti, questa è una cosa che è stata messa poco in risalto, ma perché il popolo aveva capito che cosa servivano quelle televisioni, ovvero a chiamare alla dawa e alla reislamizzazione della società. E in secondo luogo la Tunisia. Ieri è stata firmata la prima petizione, 170.000 firme per i Damarod Tunisia, quindi credo che il colpo di martello per i fratelli musulmani arriverà anche in tutto il quadrante. Grazie. Grazie Stefano e grazie anche per essere stato rapidissimo. Brevissimamente, abbiamo ancora il tempo per un giro, appunto, ripeto, molto breve. Innanzitutto Raffaele Marchetti, che lo ricordo, è docente di relazioni internazionali alla Luis Guido Carli di Roma. Voglio interrogarla proprio sull'ultima cosa che ci ha detto Stefano, il rischio di estensione di quello che è successo in Egitto ad altri paesi. Ma direi che ci sono dinamiche locali che sono più importanti delle dinamiche regionali. In questo caso, quindi, certamente è possibile che ci siano movimenti di protesta in altri paesi, ma ognuno seguirà delle dinamiche specifiche. Insomma, ricordiamoci che fino a qualche giorno fa la Turchia era al centro di una situazione politica molto tesa. Ci sono dinamiche locali dove naturalmente gli attori stranieri, nel caso egiziano gli Stati Uniti, hanno giocato e continueranno a giocare un ruolo significativo, ma al momento non mi sembra di poter prevedere un'altra ondata di diffusione di protesta così come quella che abbiamo visto un paio di anni fa. Grazie, voglio andare adesso da Ugo Tramballi, in questo caso soprattutto per farlo rispondere ad Habib, che ti ha chiamato direttamente in causa, dice insomma non avete capito molto e nemmeno il vostro inviato, quindi io ti giro l'osservazione dell'ascoltatore. I fratelli musulmani come la democrazia in Egitto sono processi estremamente dinamici. I fratelli musulmani di oggi non sono gli stessi fratelli musulmani di 80 anni fa fondati da Al-Banna o che Nasser appunto cacciò mise fuori legge. Come tutti i movimenti anche questo è in grande evoluzione. La democrazia, invece la conservazione, il tentativo di imporre la Sharia e la volontà di partecipare a un processo democratico ci sono entrambi presenti nei fratelli musulmani. Non è giusto considerare. Cioè, è una visione molto dall'interno quella appunto che il nostro ascoltatore analizza, una visione di chi è giustamente parte di questo conflitto, c'è una grande polarizzazione infatti in Egitto e dal punto di vista della democrazia, cioè, ho sentito diversi ascoltatori dire che questa non è democrazia, che non ci sono i valori democratici, questo è un paese che sta costruendo la sua democrazia. La democrazia non è un modello ideale politico, morale e culturale che può essere paracadutato da un posto all'altro del mondo. Ricordiamo che George Bush ci ha provato quando ha invaso l'Iraq e quando c'è stata la guerra in Afghanistan. Madeleine Albright, l'ultima segretaria di Stato di Bill Clinton, ricordava che imporre la democrazia è un ossimoro, cioè non si può imporre la democrazia, è un processo lungo, quindi l'Egitto ha solo cominciato il suo processo, non possiamo misurare la democrazia egiziana con l'unità di misura nostra, è un processo molto in corso e anche ricordo che la rivoluzione francese è cominciata nel 1789, ma possiamo dire che si è conclusa con la nascita della prima vera repubblica francese nel 1871, è vero che oggi c'è internet, ci sono i siti, ci sono le televisioni, però comunque in ogni caso richiede molto tempo. 30 secondi, Mervat Tuad, ma veramente 30 secondi, per un'ultima domanda, visto che è una donna e un attivista, abbiamo letto che ci sono state quasi un centinaio, dice Human Rights Watch, un centinaio di aggressioni sessuali nei confronti di donne in piazza Tahrir, c'è effettivamente questa emergenza, lei l'ha percepita? Non c'è. È caduta Mervat Tuad, non ci sente? No, evidentemente non ci sente più. È caduta la linea. Allora, a questo punto io devo chiudere perché abbiamo veramente un minuto, non ho tempo più per far intervenire né Graziano Veggiani, imprenditore che ringrazio, gli chiedo scusa, gli ho detto rimanga con noi, poi in realtà non sono più riuscito a farlo parlare. Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali a Luis Guido Carli di Roma, appunto Mervat Tuad che ci ha già salutato forse per linea caduta, Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore al Cairo. Ringrazio anche Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, ringrazio tutti voi per l'ascolto, se volete come al solito mi trovate su Twitter, Simone Spezia, potete scriverci, 9in.radio24.it, potete intervenire e continuare a discutere sulla nostra pagina Facebook, i social media, ci sono i social network, ci sono apposta per questo, perché insomma la trasmissione prosegue anche dopo www.facebook.com/9in.radio24, ci si sente domani. Ricordati! Mancano 87 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.